perché non mi aveva cominciato a braccare un palato giù. Non so, io lo dico a tutto il paese. Lo sta partendo l'altro di un quarto mila, lo va da un fondo a casa in casa del servizio palato. Lo fa la gara da parte della dinamica di un motivo. Per la cosa un palato in un quarto mila. E il servizio palato è andato in su. La famiglia, la famiglia di Norma. La famiglia di Norma, non è più domani. Una monta macchina e mi fa quella là allora mi serve da quella casa di me e poi ho dato a una mucina a una casa di me e mi ha detto per una casa di mia mamma e per quello che ha detto mi serve da quella di me ma anche la sua lo so che era una a quella casa a quella mucina a quella roba ma una della mia a casa di mia mamma e per quello che ha detto mi sembra che mi ha detto e sono una roba e mi sembra che خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.